24. La storia. La descrizione di questo luogo è semplice, è un posto magico. L'Eure è Roma. Cioè, l'Eure è Roma. Io ho sempre pensato a questo luogo, anche se l'evidenza è contraria, come un luogo vuoto, appunto perché la suggestione di De Chirico, il modello delle piazze d'Italia de chirichiane, metafisiche, sicuramente è stato tenuto presente dagli architetti, da coloro che lo hanno concepito, e ho l'impressione che Antonioni abbia voluto proprio raccontare questa utopia di una città vuota. Un quartiere metafisico, monumentale, razionalista, conosciuto e studiato in tutto il mondo. È stata definita la città bianca, la città nella città, la città giardino, la città dei musei. È l'Eur, il quartiere voluto da Mussolini che dalle terme di Caracalla porta verso il mare, verso Ostia. Un quartiere nato in occasione dell'esposizione universale che si sarebbe dovuta tenere a Roma nel 1942. Ancora oggi l'Eur resta uno degli emblemi architettonici del Novecento italiano. È sopravvissuto al dopoguerra, quando si voleva sostanzialmente cancellare ogni traccia del fascismo. Poi è stato per molti anni abbandonato, quasi dimenticato. Ma improvvisamente negli anni 60 è rinato l'interesse e la curiosità verso quartiere anomalo rispetto alla città di Roma. Oggi è la vigilia dell'inaugurazione dell'Expo, che si tirerà domani a Milano. A Mix24 vogliamo raccontare la storia di un quartiere nato proprio in occasione di un'esposizione universale e che ha saputo poi trovare la sua anima, diventando nell'immaginario di molti registi italiani uno spazio urbano dalle straordinarie potenzialità scenografiche. Il primo ad amare quasi incondizionatamente l'Eur è stato Federico Fellini. Per lui l'Eur era un magico, surreale, fiabesco teatro di posa. Ascoltiamolo. L'Eur ti restituisce questa leggerezza, insomma, come di abitare in una dimensione di un quadro. Quindi c'è una carica, un'atmosfera liberatoria, in quanto in un quadro non esistono leggi se non quelle estetiche, non esistono rapporti se non quelli con la solitudine o soltanto con le cose. Sono case vuote, case disabitate, edifici creati per fantasmi o appunto per statue, come sono questi qua. Direi che Fellini ha fatto il più grande elogio alla concezione fascista dell'Eur, che avrebbe dovuto essere appunto una pietrificazione dell'eterno. Ma Federico Fellini non è l'unico regista ad amare le architetture dell'Eur. Maestri del cinema come Michelangelo Antonioni e Bernardo Bertolucci hanno legato in modo indissolubile alcuni dei propri capolavori a immagini indimenticabili del quartiere. Altri, come Pasolini, hanno addirittura eletto l'Eur a proprio luogo di vita. E anche il cinema internazionale non ha saputo sottrarsi al fascino della città bianca. Tra le molte anime dell'Eur c'è, insomma, quella della scenografia ideale. Nel film Boccaccio 70, l'episodio diretto da Fellini, Le tentazioni del dottor Antonio, sembra quasi profetico nell'anticipare il presente e infatti Anita Ekberg dice: stavo lì come una nuvola. Che fastidio ti do una nuvola? Perfino una nuvola può prendere delle forme che io non voglio neanche qualificare. Dalla nuvola di Federico Fellini alla nuvola dell'architetto Massimiliano Fuxas. Mezzo secolo più tardi è proprio una nuvola con dentro un grande auditorium di cui parleremo tra poco ad essere scelta per darne una nuova prospettiva al quartiere. Ma per capire quale potrebbe essere il futuro dell'Euro oggi occorre sapere come è stato pensato e costruito dai suoi progettisti. Architetti che negli anni 30 immaginarono inconsapevolmente un'architettura che oggi si rivela perfetta per ospitare gli interventi del futuro. E allora torniamo alle origini, al tempo del fascismo, all'idea di costruire una nuova città. È il 1935, l'anno tredicesimo dell'era fascista. Ce ne parla lo storico Emilio Gentile. L'Eur non nasce con l'effetto della nuova Italia imperiale dopo la conquista dell'Etiopia, ma nasce prima, nel giugno del 1935, che Bottai propone a Mussolini di presentare la candidatura dell'Italia e di Roma per l'esposizione universale. L'idea di Bottai viene accolta immediatamente da Mussolini, Per realizzarla viene istituito un ente autonomo guidato dal senatore Vittorio Cini e il primo problema da affrontare è quello di identificare l'area adatta a ospitare l'esposizione. Ascoltiamo ancora Emilio Gentile e poi Federica Galloni, dirigente al MIBAC. Mussolini all'inizio non ha un'idea molto chiara e addirittura prevede per l'esposizione tre diverse località, tre diverse localizzazioni. Poi alla fine, con la presidenza di Vittorio Cini, prevale invece la concentrazione nella zona attuale di Roma. La zona prescelta per l'E42 ha all'incirca la stessa struttura collinosa di Roma e occupa col suo terreno ondulato la pittoresca posizione tra il Tevere e la via Laurentina. La scelta ovviamente era in un certo senso obbligata, perché se pensiamo al progetto, che poi è stato anche in parte realizzato, l'Eur doveva essere questa nuova Roma che veniva collegata alla vecchia Roma dalla via Imperiale, che partiva dal centro di Roma, che all'epoca era naturalmente Piazza Venezia, il monumento a Vittorio Emanuele e soprattutto Palazzo Venezia, via dei Fori Imperiali, poi via Imperiale, che avrebbe collegato direttamente Roma a Ostia. Nel disegno originario fascista era più vista come una città di fondazione, di nuova fondazione, una città molto coerente sia come disegno urbanistico fondato sul disegno del castrum del Carlo Decumano, sia come rapporti tra gli edifici privi di qualunque aspetto architettonico di decoro, considerata come una cerniera tra la città storica e la città verso il mare. Una città di fondazione, di collegamento alla via per il mare, di sicuro una città monumentale. Mix 24, la storia. La fase esecutiva del gigantesco programma può dirsi iniziata alla data del 28 aprile 1937, quando cioè il Duce, con la prima visita alla zona prescelta e con la piantagione del simbolico pino romano nella parte più elevata del terreno, consacrò all'alto scopo cui è destinata l'estesa area di più di 410 ettari dell'E42. Bentrovati su Mix 24. Il regime fascista segue con attenzione lo stato di avanzamento dei lavori di quello che dovrebbe diventare il luogo per ospitare l'esposizione universale del 42. E lo stesso Mussolini si reca più volte in visita ai cantieri. Il Duce visita il padiglione dove, da una serie di grafici, disegni, acquarelli e bozzetti, risultano le linee generali del piano regolatore, la rete delle vie d'accesso da Roma, la distribuzione e la disposizione dei fabbricati dell'esposizione universale. Costruzioni che per la massima parte avranno carattere di stabilità e formeranno il nucleo monumentale del futuro quartiere urbano che congiungerà Roma al mare. Tra gli architetti e gli urbanisti chiamati dal regime a progettare il nuovo quartiere si apre un vivace dibattito sullo stile architettonico da adottare. Alla fine prevale l'orientamento di Marcello Piacentini, a cui viene affidato il ruolo di coordinatore tecnico dell'intera opera. Ce ne parla la storica Alessandra Tarquini. Lo stile, le esigenze, ecco, che avrebbero dovuto orientare questo programma di massima sono certamente riconducibili al cosiddetto monumentalismo. In un primo tempo gli architetti razionalisti pensavano che avrebbero avuto grande spazio nella progettazione e nella realizzazione dell'Eur. In realtà le cose non andarono così, perché appunto Marcello Piacentini, che dirigeva i lavori di progettazione, fu molto chiaro appunto nel definire lo stile dell'Eur littorio. Monumentale e moderno al contempo, in un certo senso possiamo dire monumentale e razionalista, cioè uno stile in grado di evocare l'impero e quindi monumentale, grandioso, ma anche di lanciare Roma come mito politico per il futuro. Tra le costruzioni previste nel progetto dell'esposizione universale del 1942, alcune sono destinate ad assumere un vero e proprio valore simbolico. Ce ne parla lo storico dell'architettura Giorgio Muratore. Il simbolo vero e proprio del quartiere doveva essere addirittura un altro, doveva essere il famoso arco che sarebbe stato costruito al posto di dove adesso è il Palazzo dello Sport, per intenderci. Poi di fatto i simboli, più che il simbolo del quartiere, sono diventati due: il cosiddetto Colosseo Quadrato, il Palazzo della Civiltà Italiana, e la chiesa di cui non si parla mai, ma di fatto era importante perché eravamo pochi anni dei patti lateranensi e quindi l'Italia si presentava anche con questa doppia anima che indubbiamente poi è quella che è anche sopravvissuta ancora oggi. Il Duce ha visitato il cantiere del Palazzo della Civiltà Italiana, la cui imponente mole già comincia ad essere rivestita con blocchi e lastre di marmo. Si tratta di iniziare uno sforzo sistematico e di coordinare tutte le energie nazionali perché l'esposizione mondiale del 1942 sia degna di Roma, dell'Italia fascista e del titolo di Olimpiade delle Civiltà con la quale viene annunciata al mondo. Perché l'idea nel fascismo, nello stato totalitario e fascista, è che non esiste nulla che non sia politico, non esiste nulla che non sia politico in senso totalitario, cioè che non partecipi a trasformare gli individui in una massa compatta che deve adorare il partito, la nazione, lo stato e il duce di turno. Allora era Mussolini. A completare il codice stilistico monumentale dell'E42 contribuisce poi, sin dall'inizio, la progettazione di ampi spazi verdi. Mediante accurati trapianti si creano intere zone boschive e giardini che raggiungeranno la superficie complessiva di 160 ettari, mentre i viali alberati si snoderanno per una lunghezza totale di chilometri 15. Il verde è un vero elemento di progettazione del nucleo di EUR, è un polmone verde, è un antemurale verso la città storica, è un complesso di 70 ettari tra giardini, parchi, il Giardin del Lago, il Parco del Ninfeo, e che hanno costituito nel tempo il verde dei romani. L'EUR avrebbe dovuto rappresentare da un lato l'evocazione della Roma antica, perché l'EUR è di fatto una rievocazione della Roma antica, ma al contempo questa rievocazione non avrebbe avuto, diciamo così, uno scopo meramente nostalgico, come appunto rispetto a una rievocazione del passato. Questa Roma imperiale, in questo senso questa nuova città, avrebbe rappresentato il mito dell'impero proiettato nel futuro. Qui sta tutta l'intelligenza dell'intuizione di Marcello Piacentini, cioè di fare un'architettura in qualche modo senza tempo. Cioè più passa il tempo, più sembra contemporaneo. Cioè certe assurdità, certe astrazioni delle origini sono state metabolizzate nel tempo. E se qualcuno deve ricordare un'immagine di Roma contemporanea, usa quella dell'Euro. Sotto la spinta del regime fascista, l'idea maturata da Marcello Piacentini è dunque quella di realizzare all'EUR un'architettura senza tempo, dall'impianto urbanistico a forma di pentagono. Tutto fa pensare all'idea di una città premeditata e perenne, una città in cui continuano a confrontarsi esponenti di spicco del pensiero architettonico contemporaneo. E negli spazi geometrici generati da questa struttura urbanistica, il Palazzo delle Civiltà Italiana occupa una posizione di particolare rilievo. Ce ne parla Umberto Croppi. Questo era l'ingresso al quartiere espositivo e anche al paese. Infatti si sarebbe dovuti entrare da questa scalinata, salire fino sul terrazzo che non è molto noto, è il punto più alto della città. All'estremo opposto del Pentagono, a chiudere la strada che parte dal Colosseo Quadrato, viene costruito su progetto dell'architetto Adalberto Libera il Palazzo dei Congressi. È un edificio originale, ricco di colonnati, in aperto contrasto con i canoni del razionalismo. Ma l'elemento forse più sorprendente di tutto il palazzo è l'enorme terrazza su cui l'architetto Libera realizza uno straordinario teatro all'aperto. Ascoltiamo Giorgio Muratore. Ancora non si è capita la vera importanza di tutta questa architettura, ecco, perché è un'architettura di grandissima qualità che peraltro tutto il mondo sta studiando già da diversi anni e che è servita peraltro recentemente anche come riferimento culturale importante per la costruzione, per esempio di parti importanti di Berlino. La Berlino riunificata, sono importanti architetti che tengono proprio l'Eur come modello. Dunque l'architettura dell'Eur resta un modello anche per molti architetti di oggi. Eppure la costruzione di quel progetto, cominciata nel 1937, subisce una brusca battuta d'arresto. Quando l'Italia entra in guerra nel 1940, i lavori vengono interrotti e l'appuntamento con la grande esposizione universale del 1942 viene cancellato. In quegli anni il quartiere si presenta in uno stato di completo abbandono. Tra edifici incompiuti, colonnati deserti, statue incomplete, si accampano prima le truppe tedesche, poi quelle alleate. Quando scoppiò la guerra fu abbandonato e poi rimase quindi dal 42 fino ai primi anni 50, per una decina d'anni completamente lasciato a se stesso, quindi era diventato una cava di marmi praticamente per i palazzinari romani. Quella che doveva essere la città ideale, simbolo dell'impero fascista nel mondo, si presenta adesso come una città morta, spettrale, fantasmi di marmo che qualcuno penserà addirittura di demolire e radere al suolo una volta per tutte. È solo negli anni 50 che vengono ripresi i lavori per la ricostruzione dell'Eur. Ed è come se la città bianca si risvegliasse dopo un lungo sonno. Vengono completati i palazzi monumentali e avviate anche le opere straordinarie di infrastrutture. La vecchia via imperiale viene prolungata e prende il nome di via Cristoforo Colombo. Si realizza la prima linea di metropolitana della città di Roma e il quartiere viene dotato degli impianti fognari e di illuminazione pubblica. L'Eur è di nuovo un gigantesco cantiere e ancora una volta Marcello Piacentini e gli architetti a lui più vicini sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano. Cioè Nervi e Piacentini li ritroviamo di nuovo nella Roma degli anni 60, così come l'avevamo trovata alla fine degli anni 30. Quindi c'è una continuità proprio nelle persone e c'è una continuità anche nella capacità di progettare a tempi lunghi. Negli anni 50 i progetti di ricostruzione prevedono la realizzazione dei primi insediamenti di edilizia residenziale. L'obiettivo è quello di fare dell'Eur, anche dal punto di vista abitativo, un quartiere modello della città di Roma. Mix 24. La storia. Dotato dei servizi pubblici più progrediti, il nuovo centro avrà vaste distese di verde. Vi saranno 30.000 piante d'alto fusto, strade e piazze di grande ampiezza, un lago, un campo per elicotteri, teatri all'aperto, un ippodromo e altri impianti sportivi. Sarà il quartiere modello nella Roma moderna, una entità edilizia di alto valore urbanistico, testimonianza della capacità realizzatrice del nostro popolo, prova migliore della sua volontà di resurrezione in un clima di libertà e di lavoro. Bentornati a Mix24. Alla fine degli anni 50, insomma, il quartiere dell'Eur comincia a popolarsi. Accanto alle imponenti architetture vengono costruiti palazzi destinati ad abitazioni e vengono avviati anche i lavori per i nuovi edifici che ospiteranno enti, uffici e ministeri. Ma gli interventi più urgenti sono quelli previsti per ospitare le Olimpiadi del 1960. Arriva all'Eur, Palazzo degli Uffici, il ministro Campilli, ricevuto da Onesti, del CONI e dall'architetto Piacentini. I plastici illustrati dal dottor Testa sono quelli del palazzo coperto per tutti gli sport e dal nuovo velodromo. Vengono firmati progetti e accordi per i due nuovi edifici, degni di Roma, degni dello sport, con cui l'Italia si prepara ad ospitare le Olimpiadi del 60. Il Palazzo dello Sport, progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sorge là dove era previsto il maestoso arco trionfale, mai realizzato. Il comprensorio dell'Eur è la prima delle due maggiori zone olimpiche. Il Palazzo dello Sport ne costituisce il cuore, e non soltanto in termini topografici. È indubbiamente frutto delle più moderne concezioni architettoniche. La sua cupola arriva ultima in ordine di tempo fra le centinaia di cupole della città. Tra le attrezzature olimpiche dell'Eur, la nuova piscina, gentile anche nel nome, si chiama Piscina delle Rose. E il grande velodromo, anch'esso di nuova costruzione, capace di accogliere 20.000 spettatori, dei quali 15.000 seduti e 1.000 in tribuna coperta, costituisce quanto di più attuale vi sia oggi nelle attrezzature per le competizioni su. Grazie alla televisione, gli appassionati di tutto il mondo possono ammirare le gare di scherma sullo sfondo di una delle architetture simbolo dell'Eur, il Palazzo dei Congressi. Gli scatti dei ciclisti sulla pista del nuovissimo velodromo, la corsa dei maratoneti tra gli scenografici palazzi del quartiere e sotto la cupola del Palazzo dello Sport gli incontri di box fino alla medaglia d'oro di Nino Benvenuti. Dopo il rilancio del quartiere con le Olimpiadi, l'Eur continua a trasformarsi e crescere oltre i confini dell'originale Pentagono. Apparentemente però senza un chiaro progetto per il futuro, tanto che nel piano regolatore del Comune di Roma del 2002-2008 si legge: l'Eur è un luogo difficile da definire. Vi sono numerosi musei, ma non è una città dell'arte o delle scienze. Sono cresciuti i palazzi per gli uffici, ma non è una vera downtown. Esiste la residenza, ma non è un centro residenziale. Oggi l'Eur soffre di questa indefinita identità urbanistica, rimanendo inespresse le sue potenzialità e non ancora valorizzate le risorse di cui dispone. Insomma, iniziano i problemi legati allo sviluppo urbanistico e di riqualificazione dei quartieri delle grandi città. Ascoltiamo gli urbanisti Pierluigi Cervellati e Daniel Modigliani e poi ancora Umberto Croppi. L'Eur si sviluppa dal 60 in maniera un poco anarchica, o perlomeno, usando un eufemismo, senza una idea, senza un disegno, senza un ruolo dell'urbanistica. Sono stati fatti edifici per i ministeri, sono stati fatti anche edifici per la residenza, pensando che rappresenti sempre la modernità, l'innovazione, il futuro. In questi 50 anni si sono succeduti. Invece il futuro sarebbe stato una città, un quartiere, una zona della città organizzata. Facciamo pure gli uffici, ma facciamo gli uffici con le attrezzature necessarie per arrivarci, per smaltirle, non per appesantire il traffico generale della città. L'Eur soffre di essere diventato un quartiere di attraversamento in cui i traffici di attraversamento si mescolano con le esigenze interne del quartiere senza che questo abbia trovato una soluzione. Noi urbanisti siamo stati servi del potere politico o abbiamo superficialmente trattato le nostre città, cioè non abbiamo pensato molto ad ingrandirle, a gonfiarle e non abbiamo risolto i problemi di fondo, non siamo stati in grado di vedere il futuro. All'Eur, un po' come nella City londinese, vivono 10.000 persone residenti, stabili, ma durante il giorno si moltiplicano per 5, sono circa 50.000 coloro che vengono per motivi di lavoro e negli uffici ospitati nei palazzi dell'Eur. E adesso anche il terziario non rappresenta più un elemento, un vettore proiettato verso un futuro, perché probabilmente ci dovrebbe essere, sta già nascendo in altre parti d'Europa e del mondo, il cosiddetto quaternario, che è basato sulla rete, sull'informazione, sulla ricerca, su una serie di elementi anche connessi alla vita, connessi a una capacità di frequentare e di abitare all'interno di questo territorio. Essendo il valore delle aree dell'Eur, in particolare nella parte centrale, molto elevato, i tentativi di demolizione e ricostruzione o di aumento di densità ci sono stati e ci sono ancora, e sono stati fortunatamente contenuti dalle amministrazioni degli anni passati, perché se fosse stato per i costruttori l'Eur sarebbe diventato una sorta di Manhattan in cui non ci sarebbero stati limiti né in densità né in altezza. Ma oggi la vera sfida dell'Eur è quella di rivalutare le identità storiche del quartiere per ripensarle e reinventarle all'interno di un nuovo progetto culturale più in sintonia con le esigenze dell'oggi e del domani. La vocazione della città dei musei è fortissima qui. In questo senso moltissimo si può ancora fare, anche spingere moltissimo non soltanto sulla conservazione, ma spingendola invece verso la sperimentazione, verso i giovani artisti, farlo tornare un po' quello che è la dimensione urbanistica sperimentale data dalla cultura, dall'arte e da tutte le espressioni artistiche che in qualche modo fanno il tessuto culturale della città. Era la voce di Bartolomeo Pietromarchi, ex direttore del Museo Macro. Ulteriore vocazione dell'EUR è anche quella di creare una dimensione ecologica, un ambiente sostenibile per una migliore qualità della vita. Ascoltiamo ancora Pietromarchi e poi l'architetto Odile Deck. Recuperando innanzitutto quello che c'è, cioè tutte le aree verdi che sono presenti ma che sono in qualche modo soffocate, nascoste e sottoutilizzate in questo momento, che qui in una dimensione che potrebbe essere assolutamente sperimentale, all'avanguardia non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Credo che sia effettivamente possibile mantenere la qualità dell'EUR, permettergli per l'appunto di essere il supporto di un altro modo di vivere, come una sorta di quadro nel quale si potrebbero inserire cose nuove e un nuovo pensiero. Dunque un nuovo pensiero che proietti verso il futuro, e le caratteristiche dell'EUR sembrano perfette per questa transizione. Un'inconsapevole quanto sorprendente attualità della storia. Dunque un quartiere che guarda al futuro, dove nuove opere stanno per essere completate per integrarsi con l'esistente, come la Nuvola di Fuxas, un'enorme teca di vetro e acciaio, uno spazio che sembra sospeso nel vuoto. Questo oggetto stranissimo potrebbe essere un'astronave, ma chiamiamolo anche nuvola, che poggia su tre semplici punti ed è lunga oltre 120 metri, arriva fino a 150, dentro c'è un auditorium di 2000 posti, più ci sono i foyer, le sale d'incontro, i ristoranti, la vita praticamente, tutta questa vita si svolge all'interno di questo telo e di questa struttura. Più in basso c'è una piazza di 6.000 metri quadrati rivestita in travertino e ancora sotto c'è la grande sala per 9.000 persone. In totale questo luogo può accogliere contemporaneamente circa 12.000 persone. Gran parte del tetto della copertura e in pannelli fotovoltaici che creano un accumulo di calore, di energia poi. E l'altra cosa importantissima è che noi recuperiamo tutte le acque, fino a due volte possiamo utilizzarle. Pierluigi Borghini, presidente EUR SPA. Quanto manca per terminare la costruzione della Nuvola di Fuxas? Diciamo che come tempo mancano 10 mesi, dal punto di vista della quantità di opere da fare manca circa il 12%, quindi siamo ormai alla fase finale. E quanti soldi mancano? I soldi che mancavano sin dall'inizio, cioè nel 2006 fu affidato all'EUR questo compito che prevedeva un investimento di circa 400 milioni e furono dati all'EUR 60 milioni della legge Roma Capitale. È evidente quindi che dopo aver indebitato attraverso un mutuo bancario mancano ancora 133 milioni per la conclusione della copertura. Ma come pensate di finanziarla? Due sono i modi. Uno è quello classico, cioè quello degli azionisti che mettono 133 milioni di capitale sociale, in alternativa alla vendita di alcuni immobili. E quale delle due optate? Diciamo che in questo momento gli azionisti hanno optato per la soluzione di vendita degli immobili. Se questo sarà possibile, purché naturalmente rispettando tutti i vincoli di destinazione d'uso e urbanistici, andremo in quella direzione. Se invece questo non fosse possibile, torneremo dagli azionisti a chiedere il versamento del capitale. Tutto questo in 10 mesi? Tutto questo spero in 3 mesi. Ma 10 anni poi alla fine saranno forse? Non sono troppi dalla posa della prima pietra? Io sono all'Eur dal 21 luglio del 2009 e c'era un prato. Dopo sei anni, al posto di un prato c'è una grande teca, c'è un albergo di 439 stanze e tra 10 mesi sarà completata. Quindi diciamo che in 6 anni e mezzo, diciamo 7 anni, si è compiuta una grande opera. In mezzo ci sono stati i permessi del Comune di Roma, che hanno richiesto 4 anni di tempo per la compartimentazione, cioè per una suddivisione interna, che hanno chiaramente fatto un po' tardare i lavori. Però quindi direi... le responsabilità di chi sono, di questo ritardo e di questo dispendio di soldi? Ma direi che dispendio di soldi no, perché erano 400 milioni nel 2006 e sono 400 milioni nel 2015. Un po' di perdita di tempo, un anno e mezzo, è dovuto al fatto che siamo in Italia e a Roma. Mix 24. Bentornati a Mix 24, il quartiere Eur di Roma, benché progettato nel 1936, è dotato di una rete di sotterranei, decine di gallerie che per chilometri attraversano come una ragnatela invisibile il pentagono dell'Eur. Premonizione di un cablaggio virtuale, punto di partenza per scrivere la storia del terzo millennio nella città eterna. E credo che sia comunque una località entro la quale ancora si può sperimentare molto di quello che potrà essere la Roma futura, quello che non potremo fare mai nella Roma dei Cesari, dei Papi e neanche quella di Mussolini. L'Eur deve essere l'Eur del 3000 italiano, possibilmente. L'Eur può puntare a diventare la futura città intelligente, vale a dire dotate della possibilità di elargire energia laddove è necessario e di risparmiarla quando è il caso. Questa energia può far conto su un'innovazione tecnologica già di costruttiva dell'Eur, ovvero una fitta rete di cunicoli ipogei che consentono di alloggiare sia le centrali di cogenerazione che proprio le reti energetiche. Pochissimi sanno che sotto l'Eur vi è una rete di 18 km di fibra ottica già distesa, quindi recuperare anche questa dimensione fortemente tecnologica che chiaramente si collega con la dimensione ecologica e sostenibile e farne una sorta di modello. La rigenerazione non può partire che da questo, secondo un piano strategico in cui l'assetto complessivo del quartiere deve essere preso in considerazione, in un piano strategico che ha le sue fondamenta nella città intelligente, nella città che si predispone al XXI secolo. La città è obbligatoriamente qualcosa che muta, che si trasforma, che vive ed evolve con i tempi e le persone. Questa è una città pensata come rigida e finita, per questo è necessario permetterle di evolversi, lasciarla trasformarsi continuamente e quindi trasgredirla. Michele Molè, fondatore e direttore di Nemesi, lo studio di architetti che ha realizzato il Padiglione Italia che si inaugurerà domani all'Esposizione Universale 2015 a Milano. Tutto pronto? Intanto buongiorno, direi di sì, finalmente è arrivato il fatidico giorno, quindi si inaugurerà il padiglione, non tutto... Cosa manca? Non tutto in tempi così stretti, abbiamo potuto finirlo esattamente come avremmo voluto da progetto, ma sostanzialmente tutti gli spazi pubblici e quelli aperti al pubblico saranno inaugurati domani, probabilmente invece in qualche giorno successivo, lavorando di notte, verranno inaugurati degli spazi ad uffici e l'auditorium che sono al primo piano. Quanto tempo avete impiegato per la costruzione del padiglione? Allora, per la costruzione del padiglione vero e proprio, cioè da quando si è posata la prima pietra, di fatto è passato un anno e un mese. Abbiamo cominciato a marzo del 2014 e stiamo concludendo appunto in questi giorni. C'è stato altri 8 mesi di lavoro tra progettazione architettonica e le gare poi di appalto per scegliere le imprese. La maggiore difficoltà incontrata in questi mesi? La maggiore difficoltà è che già i tempi che vi ho indicato per un'opera che noi abbiamo voluto essere un'opera di eccellenza che esprimesse il meglio del sistema Italia, i tempi già di per sé erano terribilmente stretti, almeno per... Di quanti metri quadrati parliamo? Italia. Parliamo di circa il Palazzo Italia vero e proprio, di circa 13.000 metri quadrati più altri 12.000 metri quadrati che riguardano gli edifici del Cardo. Quindi la oltre parte i, più sì, oltre sì, i tempi. Dicevo, ecco, dicevo, la parte più problematica è stata ovviamente che l'Italia come sistema paese ha delle maglie burocratiche estremamente complesse che rendono, come dire, delle quindi operazioni. Quindi a voi nell'atto di costruzione qual è proprio la maggiore difficoltà dal punto di vista pratico, ecco? Ma nell'atto della costruzione adesso dovremmo citarle tutta una no, serie. No, una, diciamo, una difficoltà, una. Ma la difficoltà è quella che vi ho detto, è che anche per le decisioni più semplici che dovevano essere ratificate dalla committenza, purtroppo l'iter è un iter particolarmente complicato. In più, come sapete, ci sono state alcune vicende giudiziarie che hanno diciamo coinvolto la società appaltante, che hanno reso ancora più complicato i meccanismi decisori, e questo ha messo in difficoltà il cantiere. Quindi chi decideva? Sì, sostanzialmente, adesso per ripetere non voglio scaricare ovviamente responsabilità a nessuno, però certamente se avete letto le cronache di questi mesi, tutto quello che è accaduto ha reso ancora più complicato qualcosa che già in partenza rappresentava una sfida importante. I materiali che avete utilizzato? I materiali sono assolutamente innovativi, considerate che per il sistema di facciate che abbiamo realizzato abbiamo usato materiale inventato per l'occasione da Italcementi, si chiama cemento biodinamico, ed ha delle caratteristiche straordinarie non soltanto di resistenza e di fluidità, ma soprattutto è un materiale che mangia lo smog che c'è nell'aria trasformandolo in una sostanza bianca e salina che in qualche modo protegge la superficie stessa della facciata mantenendola bianca, oppure la grande copertura generale dell'edificio con dei vetri tutti diversi gli uni dagli altri, fotovoltaici, vetri a bassa emissività. Direi che tutte le parti del progetto assolutamente innovativi, quindi sì, assolutamente. Michele Molè, qual è l'idea che secondo lei assolutamente vi ha fatto vincere la gara per la realizzazione del padiglione Italia all'Expo 2015? Ma direi due sostanzialmente. La prima è l'idea di un edificio che noi definiamo osmotico, un'architettura naturale, cioè un edificio che fosse al tempo stesso, come dire, artificio, quindi cemento, acciaio, vetro, ma al tempo stesso fosse metafora e allusione della natura, del paesaggio. Come voi sapete, se avete visto le immagini del progetto, l'intero edificio sembrerà una sorta di foresta urbana, di foresta pietrificata. A cosa vi siete ispirati? C'è il secondo punto da cui ancora non ho detto, il secondo elemento fondamentale era l'idea che questo edificio dovesse essere un edificio che doveva rappresentare l'italianità nel mondo, e noi abbiamo identificato in questo l'idea, diciamo, di mettere al centro dell'edificio non un pieno ma un grande vuoto, la piazza, come luogo d'incontro della comunità. L'Italia è infatti il paese che ha costruito nella sua straordinaria storia architettonica e urbanistica i borghi e la piazza al centro di essi come luogo identificativo in cui una comunità si incontra e si riconosce in quanto tale. Quindi il Palazzo Italia sarà una grande piazza in cui la comunità italiana si andrà ad incontrare. Un borgo in chiave moderna, diciamo. Esattamente. E il quartiere dell'Euro per voi architetti resta un punto di riferimento fondamentale. Perché? Ma prima di tutto perché è uno degli ultimi veri progetti urbani che si sono fatti in Italia e si sono realizzati. Un progetto con una tale forza da un punto di vista urbano e architettonico che a distanza di 70 anni da quando è stato concepito riesce ancora, come dire, a determinare una bellezza e una qualità in quella zona di Roma che non si riscontra in tutte le altre realizzazioni moderne in giro per la città. Quindi il primo punto è che la progettazione urbana noi ce la siamo totalmente dimenticata, mentre è un pilastro fondamentale per esprimere qualità, non soltanto con il singolo edificio, ma proprio con la forma della città. E l'Euro rappresenta questo. Michele Molè, ma il padiglione Italia che avete realizzato contiene qualcosa dell'Euro? Ma certamente sì, intanto è facile dirlo, il bianco assoluto che sia nell'Euro che nel nostro progetto abbiamo voluto ricercare, anche se con materiali e tecnologie totalmente diverse, è un rimando importante a questa sorta di ricerca di un valore assoluto che anche l'architettura post-mussoliniana, diciamo, dell'Euro andava in qualche modo a ricercare. un altro elemento importante, se vogliamo, appunto, è la ricerca comunque, seppur fatta con forme totalmente diverse, diciamo, di una forma di bellezza duratura, una ricerca non dell'effimero ma di un valore permanente. Infatti, ecco appunto, ma in futuro come verranno utilizzati questi spazi? Allora, come sapete, il Palazzo Italia sarà l'unico edificio a rimanere successivamente ai 6 mesi dell'Expo, e questa è una delle ragioni per cui noi abbiamo voluto dare a questo edificio un'immagine appunto solida, permanente, massiva, volumetrica. Nel caso di Palazzo Italia, quello che si dice, e ci auguriamo che succeda, è che possa diventare una sorta di luogo in cui promuovere l'eccellenza, le nuove start-up, produrre le migliori energie giovani, diciamo appunto nell'area di Milano. Il parco dell'Expo dovrebbe in qualche modo diventare tutto questo, anche con l'inserimento dell'Università Statale di Milano, e questo darebbe a quest'area della città sicuramente, come dire, anche per il futuro e non soltanto per l'oggi, un valore estremamente importante. Quindi un'opera monumentale che contenga le energie del nostro paese, ma i costi a quanto ammontano? Ma sì, noi possiamo citare quelli che erano i costi di progettazione, non siamo pienamente informati sul saldo definitivo che in questi giorni il committente sta chiudendo con l'impresa, comunque parliamo di un valore intorno ai 50 milioni di euro per quanto riguarda la parte diciamo degli edifici, quindi esclusi poi tutti i costi gestionali ovviamente, che sono un capitolo a parte. Di tutto il Padiglione Italia parliamo? Sì, Palazzo Italia più gli edifici del Cardo, che invece sono degli edifici non permanenti e che verranno smontati alla fine della manifestazione. Grazie Michele Molè.